Ma si vinca mai la forte, non vuole alcun la palma. Ah, il geno manca l'alma, agitar mi sento il cuore. San inciampi al cimento e fiamme e armate schiere nulla potranno e mi saprò fra voi aprire il bel cammin muto aliero.